che? Beh, buonasera. Buonasera, signor Gio Maria. Sì. Io alla radio. Allora siete in due. E cosa ti diceva la radio? Ha detto che non c'è nessuno. Cosa c'è che non c'è nessuno? No, ma io mi ce l'ho acceso da una mezz'oretta fa. C'era gente nelle cucine, adesso ci sono ancora, però sono scappato io, adesso vedo un po' che c'è, però era su 10, bloccato su 10, su 10 perché stavo spazzolando e dopo in tanta gente ho dovuto sentare e adesso sono ritornato. L'ho acceso che erano le 5 e mezza. No, alle 5 me ne sono alzato, mi sono fatto il pisolino, e dopo è entrata mia nipote, e stavamo facendo cose, e che abbiamo mandato a coso in farmacia, dopo è venuta quella di sotto di me, e mi è stato quella chiacchierata, adesso sono scappato. Ehi, vabbè, almeno c'è una compagnia ogni tanto. Ehi, vabbè, chiacchierando, e ancora sono chiacchierato, poi io sono scappato, già si arrangiano donne e donne, capito? E infatti, ma si arrangiano loro. Ehi, vabbè, invece io giochi noghi, io Ruggani, e a radio. Io sono acceso il computer. Stavo guardando così i baracchini, a vedere un po' se c'era roba nuova, però quando ho dovuto mollare era ancora acceso, è ancora acceso qua, siccome c'ho quello grande acceso, il Galaxy, e sopra il Galaxy c'è il computer, e c'ho il computer e il Galaxy acceso. No, io il tablet l'ho messo a caricare, l'ho messo, perché si è caricato. E quindi sono qua, così stavo aspettando che entrasse qualcuno. La batteria non serve. L'attacco dopo 5 minuti si spegne, capito? Sicché adesso quando accendo il computer la accendo direttamente con la corrente. La batteria non l'ho mai cambiata. Non ci ho pensato mai andare a comprarmi la nuova, la batteria. Ma funziona un certo, uso poco, sicché non ne compro, capito? Attacco il trasformatore e quando guardo qualche cosa e mi adesso è già un'ora e più acceso, però è attaccata al trasformatore. Infatti è fatto bene, lo metti così, lo metti. Io la giù comparata, è durata poco, quindi. Io che attacca ne cura correnti e boh. Ma cosa, si vede che costano parecchi i caricabatterie, le batterie a comprare la nuova. Quella che ho io del mio computer HP costa 52 euro l'originale. Non so, non me la metto nemmeno cassi che la va questo computer. Ce l'ho già. 5-6 anni più ce l'ho. Sempre quella stessa, è dentro la batteria, è 2-10 minuti, ho preso, spegne, così che lascio sempre acceso per carica batteria e lascio sempre così, capito? E fai bene. Ma così non si carigheggia. Infatti, allora, merda. E allora, se lo battiglio, non si è sentito ancora, ancora è presto magari. E ancora è presto, sì. Se non se ne accende. Boh. E vabbè. Ma ieri sera entrati siete? Ieri sera. Sembra di sì. Sì che siamo entrati. E tu sei andato a prendere la 50? No, non c'era tutta la sera, dalle 5 ero fuori, accompagnato mio nipote a karate. Poi da lì alle 7 sono uscito e sono andato a casa sua. E se ne sono giunto all'8 e un quarto, no, l'8 e un quarto, 8 e 20. A me pare che sia la parcheggia a Marino, mi sembra che sia. Mi sembra, non mi ricordo, boh. Senti, so che mi ha imparato un po' tutto, boh. Ehi, certo, non è una cosa grave. Vabbè, non mi ricordo veramente. Boh. Adesso l'ho acceso dalle 4, le 4 e mezzo l'ho acceso qua. Dopo, ripeto, entra sta gente e ho dovuto uscire in cucina, andare in cucina fino adesso. Però era acceso il computer e l'apparecchio, capito? Com'è? I cavi si sta usando, eh? No, è perfetta la radio, buona. Segnale buono lo stesso. Ehi, fa buia. Ehi, ogni tanto faccio circolare anche questo per la sera, perché è sempre coperto. Che computer sopra. Sì che sono tutti un po' coperti. Allora, quando accendo il computer, accendo questo, pure, capito? E fai bene. Ah, ma qua, beh. Ah, non vuoi vedere la roba lì? Allora, stavo guardando il coso, il 7009, quello che c'ho io qua, 204,80 costa. Costano, però, ma cosa ne fai più, Ava? Non ce l'ho. E allora abbiamo pagato 225, abbiamo pagato un graziato, perché avevamo preso due. Cioè, e l'abbiamo pagato 225, adesso l'avevo ammazzato. Infatti questo costa 204. Ma da una vita all'altra cambiano i prezzi. Infatti, da una vita all'altra cambiano. Ma ci graziano, ci rappigliato per lasciarlo rimunito 34 conveni. Che se lo vendia? Io mi ha collegato, ti ho collegato ogni tanto, ho acceso perché ce l'ho sulla scrivania, c'ho il Cobra, più c'ho il 5500 e più c'ho il 7009 attaccato. Tutte e tre ce li ho attaccati, capito? Poi accendo uno, poi accendo l'altro. E mi sta facendo questo. No, io stavo dicendo di Graziano che si era comparato Buruedo. Cosa si era comparato a Faga non ho ventra? Primo periodo, l'abbiamo comprato insieme. Tutti due insieme sono arrivati, capito? Per cui io lo uso, ma lui lo usa ogni volta il pappa, l'ha coperto per non prendersi il raffreddore, capito? Con la coperta l'ha coperta. Ossia che piglia freddo, piglia. Più che altro ci riguarda così. Oppure penso che lasciandolo fermo, se, penso che prima o poi qualcosa succeda, ma speriamo di no. Specialmente questi adesso, magari lui prima non si guastavano mai lasciando le firme, ma questi adesso penso di sì. Ma io dico, forse si era pigliato a faga, non ho udrate, ma si è rimonito. Ah, cosa si era pigliato a fa? L'hanno passato 225 euro. Lui si è pigliato a fa, non c'è tempo. Ma è sentito, vedi che come fa a usare se è fatta da salatissimo, che c'è sopra la banca, a me ama così, entra qualcuno, li intendi a postare 5 minuti, che c'è, la macchina quasi funziona. Sì, certo. Io l'avevo buttato un pacchetto a una base, me l'avevo buttato a una base, me l'avevo buttato. Ma quello era lui da fare. Tu la pensa in quella maniera, purtroppo io ce li ho e le metti in esposizione. Quando non si alza la stessa, quando no, sono sempre pronto. Infatti è così, hanno le gana a sendi una, le gana a sendi un altro. Allora sono tutte e tre collegati, ci ho messo un deviatore e l'antenna, l'ho fatto a girare lo scatto del deviatore e l'accendo uno, cazzo. sta a voi. Tengo quello, tiro il deviatore da 104 e almeno ti faccio girare ogni tanto. E fai bene, tu sei a Roma, non si arrabbia già né uno né l'altro. Eia. Ma. Vediamo. Lui lo appesta in quel modo e se piace a lui così, piace anche a lui, e cosa vuoi fare? Non è che poi è obbligato a accenderlo, no? Mi piace l'accendere, se no fa accendere. Va bene, ugualmente anche per me. Anda. Certo, bello. Tu sai che noi tre brutta gira. E anzi ora ne ho cosa, la gente dice, BMR, c'è nessuno? E chi era? Graziano. Oh, allora già entrato il BMR. Chiama, potresti stare lì ascoltando. L'ho provato a chiamare ma non ha ripuso. Ah, e allora l'ho acceso, eh. Ieri sera sì, è entrato, ma ha chiuso subito. Ma erano le 5... E sì, meno 25 erano che andava chiamando. Io l'ho sentito, sono andato su che andava 2 euro, l'ho chiamato. E non ha rifuso, vuol dire che aveva già errato. Vede che magari non ha sentito nessuno, l'ha chiuso. Se no gli sarà trattenuto magari un pochettino. Evidentemente, si sta bene così. Va bene. Se no, pazienza. Sono meno oggi. Ah, è meglio già acceso. No, quello del TMR non l'ho acceso ancora. Perché sono a un'altra parte. Però dopo l'accendo. Ah, ti l'accendo adesso, va. Vediamo un po'. Hai sentito? Sì, l'ho sentito adesso. Allora, ne ho già chiamato 2 o... Dove la cifra? O era lontano? E non è inteso? Boh? O erano le Dribbiati. Ah, ecco bagosa allora, non ha rifuso. Si era allontanato. È andato all'orto botanico a vedere a Rosi che stava poi dei fiori. Vero, grazie. Ma no, non c'è qua, è là. E quando va la signora, no, che non entra. Non è buono cosa in mezzo alle birre. Certo, è brutto. Che cazzo. Oh, stamattina ci siamo scesi con Luca a campagna, abbiamo bruciato tutto. Alla una abbiamo finito e ce ne siamo alzati. Cazzo, mia calore, gatta. Mia fa calore. Oh, ya. Yeah. Oh. Quindi là non viene più sterpaglia. Oh, no, e adesso è bello tutto pulito, cazzo, che mambo. Adesso c'è solo la moto da fare e basta, ma quello me lo faccio io piano piano, capito? Sento 2 ore in 3 sere, 2 ore ogni sera, 2 ore ogni sera, e me lo faccio come Piazza Italia. Cosa li metti anche le mattonelle? Allora, almeno le va bello pulito, non cresce l'erba, sono cresciuto l'erba. Oh, stava già crescendo qui, l'altra sera sono sceso, me l'ho tagliata tutta, già era poca, poi poco che c'era me l'ho bella tagliata, adesso ancora non ce n'è. Adesso alla settimana entrante, come fare una sera bella, ci scendo e ho una bella passata in seconda e dopo un mese bisogna rifarlo di nuovo. Si solleva troppo l'erba, si solleva. Adesso sto bello pulito, grazie, già. Gli alberi sono belle pulite anche. E per cui a portare la rovettura adesso. Oh, già ce n'è qualche puttano c'è da tagliare, ma non le taglio. Oh. Adesso basta la rovettura, sì. Non faccio da tagliare, però ancora non è tempo. Però la faccio a gennaio, febbraio, me la porto e me la brucio, per essere pronta quando cresce di nuovo l'occhio, ma quello lo faccio a febbraio, lo faccio. Infatti, Ah, cosa buona quella lì. Che sapeva fare ciò, per la cosa, o per l'altra, uia. Non manca mai. Se tu fai l'uia lì, lo gli fa. Non esce mai a cavare di piedi. Sì, quello sì. Bisogna fare così, bisogna fare. Andare. Bisogna lavorare quando c'è nel terreno. C'è l'abbandono, la prossima non c'è più lavoro, capito? Invece facendo tutti gli anni il lavoro rimane di meno, capito? E viene più bene anche. C'è l'abbandono 2 o 3 anni, il lavoro fa critica e per cui viene male, no, ogni anno bisogna farlo. Fanno ogni anno per cui piano piano, poi ce ne tanto a portare c'è tempo fino a febbraio o marzo, dopo comincia a aprire gli occhi e i rami per cui non si possono toccare, capito? Infatti, bisogna far così. A pianta dormita l'avevo fatta, gli alberi voglio toccare a pianta dormita, sì. È così, che abbiamo fatto? Alle 7:20 sono, babbo. Così è. E già stai facendo piano piano. Oggi ha fatto una bella giornata, oggi ieri c'era il vento, dovevamo scendere ieri, ma c'era vento e non si può bruciare quando c'è vento. Perché oggi vento non ce n'era, no? Stamattina, cazzo. La giornata veramente bella, anche sudata abbiamo, cazzo. Però, cazzo, mi ha fatto calore, avevamo bruciato tutto, bello pulito, almeno sono tranquillo adesso, boh. Tuglia, se sono molto a fare, e poi non se ne parla più. Faccio. Bisogna fare così, bisogna fare, ma così e... è già pronto, è tutto. Adesso a vedere. Ecco qua. Vediamo. Vorrei sapere queste cose. Sapete se ti apparecchi, no? Nuovi non ce ne sono più, tutta roba vecchia adesso, si vede che non sta andando più, non ne vendono più, vedo solo quelli che c'erano 3 o 4 mesi fa. Non ne mettono più roba nuova, no? Ormai non andano più, non hanno come mercato. Come mercato non stanno andando più. Ormai non ce n'è. Non c'è commercio, capito? Certo. Baracchino, dice che pubblico MT45, certo, 110 euro, certo, è non vero di senso. Adesso mi sia in Germania che in Francia, in Belgio, in Olanda e cose, lì li stanno adoperando con l'FM solo e blu. Lì usano molto l'FM, perché in Germania usano molto l'FM. Ce l'hanno quasi tutti l'FM, la maggior parte sono tutte l'FM. Così che chissà perché usano solo l'FM con la gente, per le nazioni. Perché sono imposte con l'FM, sono imposte lì. Vuol dire che il governo vuole usare l'FM solo e boh. Ecco. Se vogliamo. L'FM la usiamo, però usiamo poco e niente. A pensare che invece l'FM è più selettivo e meno QRM e tutto. Non li stiamo usando. Noi siamo abituati all'AM. No, chissà che noi burgacchi di non ci ambemmo. Sì, ma vedrà che prima o poi sarà. Io ho visto che su in Inghilterra le antenne ne ho visto parecchio, Ma funzionano in FM, sempre funzionano. Vabbè, comprandolo lì un apparecchio, per dire, no, se te li porti su qua, te la fanno passare. Se a mano, no. Se dentro il bagaglio in stiva, sì. Vabbè, se lo prendi in mano puoi passare, quindi... No, a mano non te lo fanno passare, dentro nel trolle che c'hai a mano, che viene insieme a te, lì non si può mettere. Invece nella valigia che va in stiva, sì. Non ti dicono niente. Lì no, non dicono nulla, non dicono. E in stiva e va in stiva, va. Tanto che si comprano lì, che tranquillo. Che li compare già più. Ma saranno. Per carità. Ma a coso, allora, quando era a Londra, in Kiwi, ho sentito dei cosi, mia figlia mi ha detto che c'è tanta gente che lo usa, che lo sta usando anche in macchina. Ehi, là per tutto lo usano, da. Gli apparati lo usano dappertutto, comunque la nazione, cacca. Solo magari hanno delle regole diverse, capito? Bella pe! Hai sente? Bella pe! Il signorino. Dai, dillo che si può fare da me. Ma perché lo chiede la 27? Ah, aveva detto una voce, mi ha detto che è rimunito e non rodocca. Perché è d'apparato, poveretto. Sempre d'apparato, vedere viaggia a muovici, un bel. Graziano, ragazzi. Per carità. Non dico io. Come andiamo a giubbotto a posto un garrello già pronto per andare a fare la revisione alla prossima guida? Ce l'ho già pronto, con il freno e tutto. Hai fatto bene, ragazzi. Bene, pronto. Quando è che si va da? Il 24 mattina. Di questo mese? Ehi, la prossima settimana. Almeno dopo lo puoi usare, ragazzi. Però l'inverno. Ecco, dove vai l'inverno? Ehi, al prossimo mese, a novembre, farò rugoso a farmi gas e poi tu. Se venne poi se c'ho l'imbrunire la gira o mangiano un burro a fa calamari. Dove vai solo col carrello? Dove lo butti col carrello? Al porto del produttore, sì. Sai, al posto non pensare, no? Sì, attaccato alla capitaneria. Che cazzo. Già va bene. Quanto paghi tu? No, solo l'assicurazione, cioè, boh. Assicurazione e il bollo del carrello, boh. Quanto fai di bollo? Sai, 22 euro e spiccioli, mi pare che 22 euro o 23 euro, una cosa del genere. E di carrello 30 euro e 70. E assicurazione invece del motore, quella è 52 euro. Cazzo, costa parecchio allora, tra una cosa e l'altra, cazzatore. Cazzo, me li soldi sono. E 127 euro all'anno. Non so poco, cazzo. Se lo vuoi dire è così, se no Sì, ma da gennaio gli faccio le foto e lo metto in vendita, lo metto. Oh, e non si interessa più allora. Ciao, ui. Mi già cominciando già a buriamo a me. Appunto, come ieri, non ieri, che la bolata, un piazzale, cazzo, peccato, cazzo, va, mi pare, già 4-5 anni fa, cazzo, avanti tutto il gonfiato, un peccato, era un motore volume della Johnson, cazzo, mi mancava solo l'elica, un carrello da nuovo nuovo, carrello da nuovo nuovo. E ancora il lapice mio. Che c'è, se una rodrata, conviene vendirlo. Se lo fa fuori, se lo fa, se no, dopo si guarda di più e te l'ha paduto così. Me ho messo il buono con buono, se è già Dio, va. Me la risente, mi dicendo, se fighi mi va a fatti, sa che non si dice se butta, e se buttare un vero vicio, se io vedo, boh. L'acqua di chili, il mio compagno di piazzare, cazzo, ma nulla, è un bel danno di fremo, conviene guardare se mette in moto il motore, e poi è tutto, fai una fotografia e lo vendi, no, ha preso buono, ma insomma, tanto un baccavazziro. Boh, mi pare che gira. Deve essere l'imbarazzo. Aspetta, vedo i soldi lunghi. Eccoci qua. Mi raggio convinto tutto. Ha raggiunto, sì. L'ho sentito. Vabbè. Speriamo che entri a subito. Aspetta, vedete se per... Attenzione, Battisio! Non vedo ancora Battisio. Andare così. Ok, è già notti. No, sicuramente ci sta mettendo la macchina in garage. Sarà così. Speriamo che entri la macchina. La macchina di 10 minuti, cazzo. Ma c'è un tempo, là. Infatti. Questo mi ha disfruttato con pizzere. Fatto, la mezza sempre la matta si cosa, non già molto, ragazzo. Riesco a fare subito, capito? Vabbè, Italia-Corea. Italia-Corea, con al volo femminile. Ma ho capito, questo, scusa, Italia-Corea. Palla al volo femminile. Ah! Se stanno a fare, vai! Anche l'Italia gioca bene, c'è una squadra veramente forte! Sì! No, Cina è, non è Corea, Cina è! Ma tutte le nazioni ci sono! Prima magari c'era un po' di nazioni, invece va, si è sviluppato tutte le nazioni, perché chi ha ragione. Va, domani ci devi punire con la cosa, con la... Non dico, ma non me ne ammento, comunque. Ed è domani, Oh. Adesso stanno dando anche le partite. Ogni settimana danno una partita l'anno, che è di calcio, no? Per cui per la sette sta facendo fare, sta facendo guardare anche gratuitamente, va. Prego! Se mi piace andare, adesso lo vuole fare, questa è in replica però. Senz'altro. Avanti, bello bene, avanti. Buonasera, circolare la stazione radar. Qua è la stazione Gufo. Avanti, buonasera a tutta la ruota circolare, anche ai cadaveri. Buonasera, buonasera. anche quel cadavere poveretto che stava maciullando. L'hai visto, me l'ha fatto vedere oggi Luca, adesso quel coraggio maledetti che ha tutti le magie, ogni zichiro, gli arugridia, a tagliarmi di anche i bracci, per carità, gatti. Ma fatto pietà, cazzo, altri soldi non subito lo voglio, ma come lì? Ce l'ho io il video, non te l'ho mandato perché se non vai show a Mugà, poi magari ti ci pensi, capi? Hai visto cosa la vede gente che va show, gente che agguanta se avvenisce i gozzi. Ora non lo so, alla guardia di avvenisce i gozzi, le torture. Oh, me va a vedere, io mi cancello subito. Vedi, fa depressione, hanno fatto le cazza brucci. Sì, mi da meno pure di piedi, pure la casa suia. E sono io, ma ho fatto vedere un pezzo, ma però noi sono noi, tuo amico, non lo voglio vedere non manco, No, no, me la già mucciata, è altro grazie a me la risetto particolare, ma io speria che non si crei, non è che non si creia. Siccome se la gente oggi sono animali, non sono cristiani, sono animali, capito? Ma quelli sono catta, ha dato i coppetti, sono mamma mia, scusa, non lo voglio manco vedere. E la gli ha fatto fare la stessa fine che hanno fatto a quello lì, poveretto, a Tichirri, ma lasciamo appeggiare. Io ti dico, se le ha messate in guerra ed era capitato in mano a me, chi su che era bella a chi e io l'avevo fatto bene a chi su, a chi ne l'aveva bucato l'ugore, mi l'aveva abbinato in mano, mi l'aveva fatto burrovia, che tanto subito ci hanno crema. E dopo è diventato tu come sei chi fa queste cose, grazie, no, manca a pensare a fare queste cose, grazie, per carità. Mica un cristiano non è un animale, è un cristiano, capo, e vedere le cose e facendo una cosa del genere, capo, come mamma mia, gatta, io faccio un'impressione di sempre, capo, si può immaginare. E se non ne aveva tagliato un pezzo alla di, un pezzo oggi, così è troppo veloce, un pezzo dare da domani, a pezzo, così ti intendi cosa vuol dire. Cazzo, ma ti immaginesi, che coraggio! Ah, che coraggio a tagliare l'anca! I frati! Cazzo, ma com'è? Mamma mia, che vivo! Vabbè, è molto! E non se ne avvisa! Ma la vita vivo, gatto! Grisi chiri! E un sangue pulsante come ti tagliamo con la ragione! Mamma mia, gatta! È fatta apposta per farlo soffrire! Ma di questa maniera, canto di Grisi, durato ma come mezz'oretta è durato che come se ne ha tagliato anche non hai visto ne hai uscito tutto lo sangue no? Ma ha perso tutto lo sangue in giro zicco 10 minuti ed era già sorrito dunque già l'ha inteso ma già se ne ha bizzato cosa lì ne vende e poi non poteva che rapido si batte va via la bocca lì ha da un cannavo in bocca buco va via come è peggio di un poco li ha dalla catena a culto da poi li ha dei brazzi l'hai visto ogni animale l'aveva due in mano a chissà me l'aveva fatto un uomo peggio di chissà che ha fatto e non l'aveva fatto per carità tu cazzo a vedere che si fosse il genere io un pezzo di raggiungo però mi ha fatto male solo a vedere tu sta tranquillo che se ci danno in borsa in rete sta tranquillo che sciolgo una caira non ti preoccupare no sente giù era rivolta all'Italia che si vede che era italiano si batteva come te l'ha fatta Chissu togli attento invece Chissu che non si volta che non si acciappia impiccato invece non si acciappia e che sai che c'è un bovaraccio che era se era americano o uno di quei russi che hanno imbigliato non si sa se era italiano a chi va via pure un taglio dei beni alla moda come ci sa adesso tutto rasato dietro e sopra poco a poco capito è cosa recente, dal vivo e dammi adesso fatta va ehi alla ciappani che hanno già in rete, sta tranquillo che tutti questi che c'è in rete la ciappani, non ti preoccupare che la ciappani. E poi quel tipo lì non era nemmeno iracheno, questo tipo era spagnolo, c'aveva l'accento spagnolo. La Spagna Bruno già di Green non la ciappa. Mi controlli nel video, non ti preoccupare, non la ciappani. Quelle di quelli esaltati scemi che vanno là come come da qua italiani, non ce ne sono andati lì a fare la guerra. Gente esaltata, gente malata di Salvito. E un bel venere che sa niente così. Che si vuole imbigliare da ciappati e fate pure subito. Boh, non ve ne deve darsi che sa niente così. Ti sono disegni, se la viene data in mano a me l'avevo fatto peggio, di chi su chi è da fatta adesso un bovaraccio, ma peggio, fa vedere. Fa sapere cosa cazzare l'ha fatto e da rito. Ve l'avevo fatto vedere adesso. Vabbè da un poco. E che cosa ci appena abbia fatto vedo. Ahia fatto, ma purtroppo non li voglio vedere, non mi interessa. Ha chiamato subito, è un gusto, oh, non rimane bene, chi la cazza la ammazza subito. Ma chi ci bisogna fare la stessa cosa, peggio di chi ci ha fatto questo. Ah, aspetta, bisogna tagliarne un pezzo ogni tanto. Prendo per vedere, un pezzo ogni tanto ne dagli. È per buono al russo. Ehi, e allora? Di questa maniera, vabbè, ti ha sufficto questo bavaraccio, ma sarà durato, penso, un quarto d'ora. Anche come se mi era mussato la brimacca, tu mi ha giringato di sangue dall'arteria, che mi era troncata brutti. Poi mi ha truccato bruata, dunque, era già mezzo stordito, mezzo dissanguato. Poi mi è andato nei bracci, però già era ancora vivo, non era molto, ma penso che sia molto subito, avrà perso tutto lo sangue. Non mi piace no, per dire cosa a me. Ah, oh, ma sarete dei maledetti, dici. Andare. Ah, che ti avessi entrato il bacchigio, attenzione signor bacchigio. Non deve essere arrivato. Noi di magici animali, a chi che ci di noi che hanno fatto la becca, hai subito giù, ma di ma com'era? Che te l'hanno morto a colpi di bicco, di bara e la bella è fatta a pezzi con la motosega. E chi si, c'è tipo un ingarile, chi se l'ha ammazzato subito, lì all'uncanto una pedi, un cazzo dell'oceano e così si da mare. Andare, ormai è successo. Ma io dico che ce lo faccio a fare un colpo al manco. Ah, ma cosa hanno di punire i fiori? Sì, ma non è quello, no. È che a quel ragazzo, non sai quanto avrà sofferto, bruci erano tutti dusci. Avrà sofferto un po'. Agisce, o se non la matta queste cose che hanno fatto, di Agisce. Altro che carriera e processo, Agisce, lui è, io non ho fatto niente. Altro che processo l'abbia dato, e bevi l'abbia dato. Dice che non ha fatto niente. Tutti gli amici, capito? Tutti i dolci, c'è chi sa ne dei gabbo, mica erano tutti, sono tutti drogati, dice. Cosa ti è giunta? La doccia ti è giunta. Visti anche stata la grazia. O parla piano, chissà chi pare troppo in pezzo e troppo voce. Vitti lei, va va, che ti basta, cazzo. Mi bevo coraggio, mi cazzo. Ma come si fa, cazzo? Ma dice, fanno i salvetti bruciati a fare cose del genere, so. Ma tutti li immaginate, ma sei un animale così, cazzo. Ma, boh, ne drusani cosa che tu vani? Boh, boh. Per carità, che punto siamo arrivati, cazzo? E poi per 400 euro, per 4 genitori di debiti che aveva, hanno fatto questo travaglio, ma tutte le immagini, mamma mia, gatto. Vedi che poi dirà, dice, cioè fa un debito da pagare, ma vai, affanculo, vai, un debito. Dai, ammazzo una persona, ammazzo. Vabbè. Dopo ti vieni a fare la pesca alla mamma di subizzino puro, così abbiamo diritto, hai compreso? No, lo sai così, che mi ha fatto la rosa, allora mi spurga, hai compreso? Perché adesso devi fare un po' cagarismini con l'acqua, grazie a te, ma è chiaro che la frigi magari rimane un po' frigente le placche, capito? No, ma io me lo posso far liberare a me un po' con i polmoni, capito? Il respiro. Che se no mi va, mi si piazza il bizzarrone in pittorra e mi si zarra, mi respiro male anche con l'ossigeno. Ma non è che sei fumente puro? No. Hai compreso, e chi ci ha fatto? Gente buona in galera, dimmi tutti se gente di buona in galera, dopo un'azione del genere che hanno fatto, e con la brumizia di venire a pure alla mamma di chi sono la stessa cosa, eh? Ma lo penso, dai. Però non penso che mi esce risalto facilmente i saienti, ormai i saienti non mi si più da dritto. A chi ci vivo l'ergastolo, voglio vedere come è andata a finire questa cosa, a chi di imbecille di Borsetti l'hanno dato l'ergastolo, a chi dato va via l'ergastolo e la palla lì, l'hanno condannata a 10 anni, chi su tutto. Cambo su zicco bassone, e anche da su 7 anni, a te beati, prima va via il ragazzolo, e va che tu 10 anni e che tu 7 anni, boh! Ma va a fare, bisogna avere l'articolo, gli articoli non sono tutti uguali, per cui informa gli articoli fanno le condanne, però qualche voce un po' di fa, caga tu, proprio, mi lascia sicuro che insomma, a me mi pare che Borsetti sia innocente, ma a me è innocente, a voi tu sei tu, boh. A me non lo so, boh, no, non ce la metto la noce il fuoco, però tutto il suo tranza che ha fatto, andai lì a postarsi, andai la balestra, ma cosa ne è andata a fare? Boh, un anno manno, va a una figliola, canto una moglie, di grazie a Dio, è in gamba, boh. Se non era anche maniaco, capito, grazie, sai cos'è? Ci sono anche queste persone, maniaci, sono malati e per cui fanno tutte queste cose, boh, non lo so, però quindi giochi a rimosso e non è altro di poco, anche su ragazzo, non lo so, sì, da tutte le cose che hanno fatto. Poi dal DNA, ne vedo il DNA sugli vivi. L'hai fatto un bel voto di canali, è il risultato sempre di DNA, è lo DNA sugli. Come si spiega? Ha bisogno che abbia fatto anche il trucco di qualcuno. Non lo so. Non lo so. Hanno fatto, hanno sbagliato tutto e non sanno come te da pazzi, allora è chiaro quello che danneggia, hai capito? Boh, vabbè, però non è giusto, se anche ti va via l'ergastolo e ammorto. Sì, con Bassoni, avanti dai 10 anni giù. No, l'ergastolo devi via la gaffa, tanti aveva mangi a noi, tanto mangi le dalle di là a noi. Ma è un scittore. E già. Ma a me mi pare che siano attenti Gesù. Vogliono un colpevole e l'hanno avuto. Sì, ma è come hanno fatto ad andare a finirci il DNA suo. Sopra la roba di quella bambina. Dappertutto c'era il DNA suo. No, non era dappertutto. Quello che sono nella nauda che c'è tanto l'hanno incastrato, ma è colpevole. Ecco cosa è. Non vedi voi quanti ve ne sono innocenti? Ma te, io magari qualcuno aveva qualche cosa di bossetti ve la porti chivi. Cate, perché mancava un bel esempio? Che la cosa se era lunghezza, allora magari sarebbe stata che pezzo di roba di bossetti e questi fadaedo, perlomeno. E ha già abbassato isso. Sicuramente è pure così. Qua c'è pure così. E dove li hanno un colpevole Vuriano, è la Naudur colpevole. Poi c'è buro. Non lo so, è un casino quello lì a vedere. Adesso vuole l'appello di nuovo, Senti, se viene a l'abbiamo fatto subito. La cosa è stata diversa, invece è stato un pasticcio. Cata, hai fatto così così voci ha rimagliato, poi fare. Insomma, per un macello, infatti, come sarei fatto a condannarlo, se non sono sicuri di una cosa, cata, Perché c'ho DNA, ma che c'ho DNA non è una prova. Voi hanno fatto DNA, un auto DNA e 30 un furgone. È tutta una bigliata in giro. Qualche cosa in mezzo, sai. Ha aggiunto ivi, sentato i soccorsi, non vero, magari può darci pure che c'è innocente, forse c'è che mi sa. Grazie una ciappa troppo di gente maniaci, c'è una ciappa troppo, però. Non lo so, faccio 10 a 30, ora è giù. Tempo di annate, studia a voglia. Se buone, magari riesce pure a essere un avvocato, buro. Non credi, Ma, cosa ne pensi, me lo pensi? Era il telefono, non vi ho seguito. Carina, un telefono. La siciliana? No, l'amica di Paoletta che ha perso la crocetta del bracciale, Paoletta. Era in casa sua e l'ha persa in casa dell'amica sua e ha telefonato a dirgli che era in casa sua in terra. Deve accedere, si è staccata dal braccialetto. E mi ha telefonato a dirgli che è in casa sua. Che l'amica sua, lauda in terra. Meglio così, vai tu. Hai gettato il telefono. Vai a telefono. Atta, mette in fronte del telefono voi, gatta. Poi non le fanno di Graziano. Graziano è già abbonato alle telefonate, vero Graziano? Luguri, mia madre ha già regato lei nata la banca, se no deve stare appesa e posa, andando nel tuo regno. Avai noi. Si rubone e squilla. Oh, ci sentiamo dopo, Gianmarì. Sta andando a prendere la signora. D'accordo, sto, D'accordo, fai pure. Te la giacchina passi. Non l'intendo del Max, sto così mettendo il sogno. Caso qui la non l'intendo, se io ve la già davanti. Ma è già si sente qua, quando è il salone. Anche tutto abito. O è uno o è l'altro, mi li telefonate da lì, a chi ce l'ha di telefonare, a chi, ma fanno apri, mi l'hanno aumentata, va. Ha aumentato, si va. Da 32 magna, rossa, faccio arrivi da 50 euro. Come te l'hai fatta a noi, certo. ma gli hanno staccato, io non ve la più sul numero di casa, grazie, a proposito. Cacchia l'annirvi sul numero, faccio solo il numero di telefonini, Invece di casa mi avevo attaccato e non ve la giù più, capito? Sono passati da appena questi zero. A questi zero, questi zero. E poi pochi mesi è passato, A 45 euro, ma può fare di sì. A me mi è arrivato già la seconda 50. Giulacca, che mi arrivi, se arrivi così dopo la disvetta, non me ne affutti nulla, che ci sono macchie. E tu vuoi sapere, Vodafone o Tim, a che io faccio la Tim? Ah, la Tim faccio. Noi abbiamo di Vodafone, se ci avanno, filaggio mi... Ma ci fa più sciaccani, ecco. Noi l'abbiamo di sciaccati, usiamo solo il telefonino, e il telefonino la faccio, la passo dalla Vodafone, la passo da un altro coso, e pago 6,99 euro. Pagano un telefonino e faccio tutto. No, infatti va, vai giù l'altra bulletta, che arrivi. Ci mi arrivi la massa di cosa gli do con la disletta, è impressa a burro, non me la futti nulla. Chi ci sono macchi? Sono strane che ha fusti, capito? Parte l'uscita uno e all'altro e tanto andare davanti, capito? E no, infatti era proprio attaccato da un mese. Così che il telefono di casa non fila giù più, grazie. Cade il telefono, era solo il telefonino. Ma io me l'avevo messo perché c'era anche internet, però era 32,50 euro. Ma si sono attrati, hai comprito? Ma fate tutti così, tutti. Così che è stato, ma parliamo di telefoni tutti quanti. Usiamo i telefonini e siamo a posto. Tanto un telefono di casa usava poco e niente. Così che avevo staccato un muro malissimo. Primo barometro, da poi bisogna andare a chiusiamo un mero telefonino noi, capito? Così che il tuo di casa non lo capiamo e così abbiamo fatto. Avevamo il telefonino e basta. Infatti, mi sa che domani invece mi la do qui la disetta, telefoneggio e ti dico di andare a ammazzarsi. Ogni tanto si telefoneggia a Torravedi, tanto vuoi ammazzare, allora? Ma quello non riposa in Sciaiette, mi vedi da quel telefono. Ma se te l'hai staccata al telefonino ti chiama. No, io adesso, prima avevo la foto a quello di casa e la foto a quello del telefonino. Metteva sia uno e l'altro laggiù Giambati, capito? Allora faccio un altro, mi sa pubblicità che c'era un televisore, mi. Dice faccio, se ieri erano 99 e c'ho tutto, capito? Boh, io va via la 3 e la via la disletta. Vi l'abbiamo il computer e il telefono. Ah no, il telefono va giù, l'attreccio sempre. Mi pare. No, se non me la metto. L'attreccio nel telefonino mio. No, io faccio questo nuovo, faccio un po' l'internet. C'è tutto, capito? E pago 6,99 euro. Ammesso, boh. E fa sempre, mi. E faccio un contratto, ma per sempre. A me mi aveva detto quando l'ho raggiunto, per sempre, 32 euro. Internet e telefono. L'ha detto già va bene. E mi invece. E io non ho parlato di sempre che c'è pubblicità al telefono. Lì, una cosa del genere. Capito, che si può mangiare un po' suia, va. Mia moglie, però non ti dico così. 6,99 euro. Fa sempre, fa sempre. Hai detto che tu mi hai ammazzato il telefono e ti do quella risletta. Si n'anda la garina, si n'anda. A me l'hai fatto così. Da 15 euro è passata a 20 e rotti. Che cos'è questa cosa? cacca, ogni mese aumentava, ogni mese, ti innandi, cacca, subito ci ho fatto la richiesta, una raccomandata che ho ricevuto in ritorno, cacca, boh, e già l'avevo staccato da me, ma. Aspetta, ve lo posso vedere io, cazzo, un adruppatore, no, saranno. Ogni mare si fa, passa a tutti così, tanto, tanti a pagare, perché tu che paga che tu non paga, capito? Per cui, se la fanno andare così, purtroppo, la massa è l'altra, ragazza. Sì, ma io vi l'avevo detto, che mi avevi telefonato e l'ha detto, se mi arriva di più la bolletta, visto che c'è vi do la risetta. Perché voi mi avete fatto un contratto a me per quella cifra nuova che avete un baga di più, non avete un prezzo. E beh, sì, mi. Stati all'inizio a me, io baga sotto la matrice cifra in frecce. Puro telefono mi hanno fatto baga a me, capito? Mi hanno fatto baga puro telefono a chi me l'ha mandato ieri il telefono, capito? Pure ci avevo, non ve la dia il telefono, me l'hanno mandato, chi se pure me l'hanno fatto pagare a poco. No, il telefono è il mio, c'ho solo il modem di internet io, e l'ho pagato un burrovisso. Ehi, come ci abbiamo pagato noi, capito? Roba la mattina, boh, vabbè. Io faccio così, se io la paga, se le case me la gioco qua, se non la gioco più, boh. Per cui usiamo il telefonino e basta, boh. A chi lo la maggior parte, abbiamo tutti due, così che solo il telefonino con un telefonino e basta, così che siamo tranquilli, va. Aspetta domani, ma no, domani è sabato, e vabbè. Che ve lo do qui, vai, non so macchino, tutti ladri sono tutti precisi. Infatti, tutti quanti precisi, se allora, non sai come te fare di là, capito, ce lo fai da uno e all'altro. Fare contratto, ma una cifra, dopo i due o tre mesi cominciano a aumentare, piano piano, poco a poco, capito? E intanto, magna nevi. Ma non magna nevi da me farò. Così prima va via Vodafone e mi aveva fatto la stessa cosa. Prima di Vodafone va via un altro e mi aveva fatto la stessa cosa. E allora no, sono tutti precisi. Prima ti dici no, no, stia tranquillo, lei paga sempre quello, boh, e infatti mi ha rovesco. Adesso domani. Truffatore sono. Tu non offendi per niente, gatte, ti sono mangiando a faccia luce, l'hai capito? Per carità, via. Infatti, come viene detto, fate sette e basta, tante chi ha ragione, uno è peggio dell'altro, capito? No, viene ma con sinceri, boh. E internet me lo tratto da chi su del telefono, ero computer, assai più. Io, infatti, l'internet, sto facendo il computer. Il computer è... laggiù io le... se mi indui la vermi, no, che non ho capito. Io mi sono attaccato a me cura. No, cazzo. E mi pago di giro a un mese al computer. E al telefonino ve la giro a testa, però è la ditta nuova che so capà. E mi pago sempre da cifra a poco, capito? Se io ero 99. E per l'internet è buono, capito? Ciao, io pago 10 euro al mese. Se li prendono direttamente dal mio conto. E c'ho il telefono internet nel telefonino. Ed è la 3, poi della 3 va di un burro Lumoden a Remunito, a chi l'ha violato la disdetta. A chi ci me l'aveva occupato, ma quando parlavo in campagna me la rigavo in campagna, no, era portatile. Vabbè. Cazzo, bisogna cominciare a imparare i clienti. Oh. che se ne abusano, capisci? Tanti la sua macchina già paga di questa gente, capisci? Ma adesso è venuto in guia che la sua macchina, e dopo la detta, tanto la paletta ha un telefonino nuovo che l'ha aiutato io. Dunque non mi dà tutti nulla adesso di gas. Già è comodo, però non ho capito. Tu mantieni la bella ola, se il contratto è fatto, è stato che magari fa sempre, però che tu mi aumenti, un mese mi aumenta, ma così non è possibile. Io pago la stessa cifra e basta. Ogni mese aumentava, hai capito? Sono macchino, catta. Allora bisogna fare uscire, va di sette e basta. Mica l'aveva detto, se mi mandate il bollettino arriva aumentato, uno vi denuncio, poi vi do anche la lisetta, perché voi a me mi avete fatto un contratto per quella cifra. Che cosa vuol dire che dal prossimo mese devo pagare 50 euro? Ma lei è matto, e mi già la seconda busta, già il secondo bollettino, ha già pagato da 50. Non fa la pratica, già sono macchinisti, paga. È stato una mantra che il governo era raccomandata, è impressa a buco. Un attimino, grazie. Avanti il sacco. Vabbè, va. Ma sento 5 minuti. Ok. Io sacco tutto. Ciao, saluta Natale quando entra. Alla prossima. D'accordo, ciao, grazie. Ciao, saluti in casa. Ciao.